che m'hai baciato, tutto tu mi hai rovinato. Di questo musetto, senza alcun difetto, sono pazzamente innamorato. Tutto tu, questo candore, tutto tu mi hai preso il cuore. M'hai ridotto male, forse all'ospedale, presto tardi un giorno finirò. Mi tormento sempre per te, povero me, povero me. Ma addormento e sogno di te, poi mi sveglio e penso ancora a te. Tu, tu, tu che m'hai baciato, tu, tu, tu m'hai rovinato. M'hai sconvolto tutto, se divento matto, lo diventerò solo per te. Innamorato.